Ed eccomi qua anche oggi, lunedì 2 dicembre, 15:15, semplicemente insieme, naturalmente in mia compagnia, in compagnia di Jerry, sino alle 17, sempre con tanta, tanta bella musica, eh sì. E allora vi do subito i numeri magici per le vostre dediche, le vostre richieste, per i vostri sms, il 335-56-37251. E ancora lo 0921 92 32 92. Vi ricordo che potete seguirmi in diretta streaming sul nostro sito che è il www.crmhappyradio.it. E ancora vi ricordo la nostra pagina Facebook. E lo dico ancora, se non siete tra i nostri contatti, semplice, andate su Facebook, scrivete CRM Happy Radio e così entrerete anche voi a far parte della nostra grande famiglia di CRM. Cliccate mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, così potrete postare, messaggiare con noi. Curiosare, insomma, nella nostra pagina. E allora che dite? Cominciamo? Sì, cominciamo 15:16 rigorosamente in diretta e partiamo con un grande artista italiano, Max Pezzali, Ragazzo Inadeguato. Si parte! Forse per me vibra il McDrive, ma devo accontentarmi di una mozzarella light. Recessione, austerità, il mio metabolismo annaspa ma non ce la fa. Mi dovrei fiondare in palestre, massacrare di attrezzi cardio, fitness e push-up. Tutte le vetrate, le tute griffate delle ragazze sui tapiru, la la la la la. Davvero che peccato, la la la. Solo una ragazza inadeguato, la la. Come quelli che al ristorante sembran giudici di Masterchef, brillanti e sicuri di sé, con la carta dei vini, esperti come sommelier. Bene fidanzate, sognanti affascinate da tanta classe che le vizierà. Al fuoco di un camino, con un balone in mano, non come me che ordino una su CRM di Radio, semplicemente insieme con Geraldina Turdo. I've been ignoring this big lump in my throat. I shouldn't again. Whatever. Si sono concesse una bella serata insieme a Los Angeles e a postare gli scatti social è stata appunto la cantante delle Barbados, appunto la nostra Rihanna, che tra l'altro rivelano che nella loro vita privata loro sono molto molto amiche e stanno, trascorrono anche del tempo insieme divertendosi allegramente. Devo dire che è bello questo, no? Perché nel mondo dello spettacolo non sempre si riesce a trovare un amico o un'amica sincero, c'è sempre molta rivalità tra gli artisti e quindi questo devo dire che è una nota positiva, quindi trovare una bella amica, un bel amico con cui insomma condividere le gioie e i dolori che purtroppo, ahimè, ci sono sempre. Bene, bene, brave, brave le due nostre pop star. E non andiamo avanti, arrivano loro, i Modà con Tappeto di Fragole. Resto fermo tra le onde mentre penso a te. Fuoco rosso, luce e rondine. Tra le foglie soffia un vento molto debole. Nel frattempo un fiore sta per nascere. Eccoci qua a guardare le nuvole su un tappeto di fragole. Fingi di amarmi. E una foto un po' ingiallita è tutto quel che ho. E non capisco se ridevi o no. Qui trafitto sulla terra steso me ne sto. Come si fa fingi di amarmi. Di fragole, di fragole. Noi appunto parliamo di fragole, perché le fragole, pensate un po', possono aiutare anche a combattere le allergie. Beh, in alcuni soggetti però possono essere fonte di intolleranze, ma al loro interno comunque hanno un potere antiallergico. Quindi le fragole, secondo uno studio giapponese condotto dall'università di Kyushu, potrebbero avere quindi un'efficacia terapeutica in caso di dermatiti ed eczemi. Beh, gli esperti hanno trattato insomma dei topolini con dermatite atopica con estratto di fragola somministrato per bocche. Hanno quindi poi usato lo stesso estratto per trattare cellule umane in provette e vedere se l'estratto fosse realmente in grado di alleviare e ridurre la reazione allergica a pollini con cui venivano stimolate dette, cioè, queste cellule. È emerso che l'estratto di fragola quindi abbassa la concentrazione di anticorpi, quindi nel sangue, dei topolini con dermatite, alleviandone quindi i sintomi. Quindi questa è una nuova scoperta. Vediamo un po', insomma, ancora è sotto uno studio, quindi vedremo poi cosa succederà. E noi continuiamo, andiamo avanti sempre con la bella musica. Siete sempre in diretta su CRMP Radio all'interno di Semplicemente Insieme. Naturalmente lo ricordo per chi si fosse messo all'ascolto solo in questo momento, e sarò con voi fino alle 17 circa, minuto più, minuto meno. Your ass too. Swag on them even when you drag casual. I mean, it's almost unbearable. Can a Harder to eat than that dare, would I? Pull up on that bitch, you pay me back. Nothing like your leg, yeah, he too square for you. He'll smack that ass and pull your hair like. So I'm dead watching, hand waiting for you to salute and chew, dead pimp. Not many women can refuse, dead pimp. And I'm a nice guy, but don't get it, cause you been pimp. Shake it up. Pomeriggio su CRM di Radio è semplicemente insieme. Ci vorrebbe un amico nel dolore e nell'impianto. sì, proprio così ci vorrebbe un amico. E su questa canzone del grande Antonello Venditti saluto Giovanni. Ciao Giovanni, buon pomeriggio. È proprio bello, sì, quando si trova un vero amico sincero, pronto a combattere insieme a te nel sempre ad andare avanti. È una fortuna trovarlo, quindi è proprio vero come il proverbio, no? Chi trova un amico trova un tesoro, quindi se lo trovate, mi raccomando, tenetevelo stretto, perché al giorno d'oggi è molto difficile trovare una persona sincera e fidata. E noi ancora continuiamo, andiamo avanti con la bella musica, però prima vi ricordo i numeri: 335-56-37251, lo 0921-92-32-92, la nostra pagina Facebook e ancora il nostro sito, che è il www.crmhappyradio.it. Adesso noi continuiamo Capital Cities con Safe and Sound. Pomeriggio su CRM Happy Radio è semplicemente insieme. Con te Yeah. Pronto a correre Marco Mengoni. Stavo al solito guardando un po', leggendo un po' le notizie. Voi lo sapevate che per esempio essere sovrappeso a volte può essere una gran fortuna? Beh, questo succede a il tedesco Gerhard Steiner. Beh, sentite un po', è rimasto praticamente illeso dopo un volo di 6 metri grazie al suo abbondante girovita. L'uomo, diciamo, era su un terrazzo quando, per motivi che ancora non sono stati chiariti, è scivolato fuori dal parapetto ed è caduto in strada. Un volo di 6 metri che normalmente avrebbe potuto causargli gravi, se non letali, ferite. Beh, invece l'uomo se l'è fortunatamente cavata con una piccola incrinazione ad una costola. I medici spiegano che a evitargli conseguenze più gravi ci sono stati i suoi 130 kg di peso. Il grasso quindi sullo stomaco infatti avrebbe fatto da cuscinetto ammortizzando l'impatto con il terreno. Avete capito? Quindi qualche chiletto in più è stata la fortuna di quest'uomo, quindi a salvargli la vita. Quindi non sempre avere qualche chilo in più fa malissimo. Certo, 130 kg sono un po' tanti, però in questo caso insomma hanno salvato la vita a quest'uomo, quindi va bene, dai, può andare. E noi andiamo avanti con la musica, sempre qui in diretta su CRM P Radio. Tears fall away, and there's no conversation. There's nothing left to break that's not already broken. You're staring into space, and every inch of silence been standing here for days. Said it all, nothing to say at all, nothing to say that matters. Haven't we had enough? Said it all, nothing to say at all, nothing to say. Odette, ma quanto sono belli e bravi. Adesso arriva lui, Gianni Morandi, solo insieme saremo felici. Ero un passo avanti e due indietro, una foglia sospesa lì così, tipo un pesce dietro un vetro io, che osservavo le nuvole in cielo, aspettavo un segnale o chissà. Canzone di Gianni Morandi, solo insieme saremo felici. Beh, saluto Nino e Laura, un bacione grande, una coppia devo dire straordinaria. Ciao ragazzi, un bacione grande grande, mi raccomando, sempre così, solo insieme sarete felici. Un bacio. Noi solo insieme saremo felici. Il tuo pomeriggio su CRM Happy Radio è semplicemente insieme. We should put up a sign. We

Vuoi portarmi a fare un giro tra i ricordi per sentire se quel che brucia forte brucia ancora come ieri o è soltanto un'altra scusa detta per nascondere bene l'abitudine che ci tiene ancora qui. Adriano Celentano con Io non ricordo da quel giorno tu. Questo è il nuovo del grande artista italiano, quale è appunto Adriano Celentano. Io stavo così leggendo, no, una notizia al solito, questa è divertente, cioè proprio forte, è proprio strana, cioè pensate un po', un uomo, questo succede in America, stava andando insomma a rinnovare un po' la patente, cosa normalissima insomma, e cosa succede? L'uomo, mentre stava parcheggiando di fronte all'ingresso di questo appunto dell'ufficio appunto per rinnovare la patente, invece di frenare del freno, ha premuto l'acceleratore, quindi sfondando la porta dell'ufficio e attraversando quasi completamente l'edificio. Fortunatamente nessuno si è fatto male. L'uomo ha raccontato che insomma gli sarebbe scivolato il piede dal freno e quindi è andato sull'acceleratore. Però non si sa se poi, chissà, la patente se gli è stata rinnovata. Ma chissà, vedremo cosa succederà, vedremo se riuscirò a scoprire se a quest'uomo è stata poi rinnovata la patente. Ma simpatica questa notizia, devo dire. Vabbè, pazienza, cose che capitano, ahimè. Sì, pazienza. L'importante è che comunque non si sia fatto male nessuno. Poi vabbè, capita. Andiamo avanti con la musica, Jason Derulo con Talk Dirty. Get jazzy on. I'm that flight that you get on, international. First class seat on my lap, girl. Riding comfortable. Cause I know what that girl them need. New York to Haiti. I got lipstick stamps on my passport. You make it hard to leave. Been around the world, don't speak the language. But your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. Jazzy on them. You know the words in my songs. No, habla English. Our conversations ain't long, but you know what is. I know what that girl them want. London to Taiwan. I got lipstick stamps on my passport. I think I need a new one. Been around the world, don't speak the language, but your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. Tuo pomeriggio su CRM Happy Radio è semplicemente insieme. Dopo

parliamo proprio di caffè, esattamente proprio dei fondi di caffè, perché gettarli via, insomma, tra i rifiuti sarebbe un vero e proprio peccato, dato che rappresentano una vera miniera di antiossidanti e possono essere facilmente riutilizzati in svariati modi ingegnosi, per esempio da dedicare alla cura della bellezza e della casa. Ecco che arriva qualche dritta, no, su come utilizzarli. Per esempio, con i fondi di caffè possiamo ottenere uno scrub per il corpo, quindi basterà semplicemente mescolare i fondi di caffè con dell'olio d'oliva e poi naturalmente metterli sulle parti interessate. E inoltre sono buoni, ottimi per rimuovere i cattivi odori dalle mani. Eh sì, come per esempio aglio, cipolla. Basta semplicemente strofinarli e via gli odori cattivi dalle nostre mani. Inoltre è possibile anche preparare una bella maschera per il viso, per esempio aggiungendo i fondi di caffè, due cucchiai di cacao in polvere, due di latte o di yogurt e uno di miele. E si fa quindi una bella maschera per il viso. Inoltre possono essere utilizzati per un pediluvio, sono utili quindi per ammorbidire le zone ruvide dei piedi. Possono essere anche utilizzati come deodorante per auto. Quindi prendere questi fondi di caffè, farli asciugarli, inserirli poi in una retina e metterli poi in auto. Inoltre sono utilizzabili come deodorante per il frigo e sono ottimi per rimuovere lo sporco ostinato e le incrostazioni, e inoltre ancora allontanano le formiche, quindi basta metterne nelle zone interessate dove le formiche praticamente ci assalgono e quindi loro spariranno. Questi sono, quindi non buttateli via i fondi di caffè, perché sono utilissimi e si possono utilizzare in diversi e svariati modi. Mi raccomando, questi sono i consigli che arrivano e io giustamente li condivido con voi, così anche voi, insomma, fatemi sapere, provateli e poi fatemi sapere, naturalmente, sempre qui, magari al 335 56 37 251, allo 0921 92 32 92. Your man, girl, you came up back on a Tuesday.

private flights, crazy schedule, fast life. I wouldn't trade it in, cause it's our life. I could be the drink in your cup, I could be the green in your pool. Yo, push a man, yeah, I got what you want. You wanna escape all of the crazy shit. You're the Maryland, I'm the president. I'd love to hear you say, girl. Do what I want with your body. Do what I want with your body. Back in the club, taking shots, getting naughty. No invitations, it's a private party. Do what I want with your body. Do what I want with your body. Yeah, we're taking these haters and we roughing them up. And we laying the cut like we don't give up. You can have my body. Yeah. You won't use my body. Do What You Want. Su questa canzone saluto Federica. Ciao Federica, buon pomeriggio, un bacione grande grande. Ancora un altro quarto d'ora da trascorrere insieme a me, insieme a Jerry, naturalmente all'interno di Semplicemente Insieme. Siete rigorosamente in diretta. Vi ricordo ancora i nostri numeri, il 335-56-37251. Mentre aspetto che tutto finisca e ti guardo perché sei perfetta, sei la cosa che più mi spaventa. Mentre togli il vestito di fretta, non rimane che la meraviglia che la tua pelle nuda risveglia. Sto precipitando, amore mio, come la pioggia sul tuo viso, come il cielo quando crolla all'improvviso. Se la tua bellezza sull'ultima giostra, come sopra due metri di onda, ogni mio desiderio si incendia. Stanno rotolando, amore mio, queste stagioni come sassi in un torrente. Un giorno lontano, pezzo di bellezza. Beh, cosa non si fa per sentirsi belle? Pensate un po', una ragazza di New York si è fatta impiantare un cuore di platino nell'occhio per avere uno sguardo assolutamente unico. Lucy, così si chiama la ragazza, non è la prima persona al mondo che si sottopone a questo tipo di intervento, ma si tratta comunque di un intervento estetico piuttosto poco comune ed è il primo impianto di questo genere che viene appunto fatto nell'intera New York. L'intervento fa comunque discutere. Il medico che ha fatto appunto questo tipo di intervento sostiene che non ci sono rischi, ma invece l'Associazione Americana dei Medici non è d'accordo ed anzi sconsiglia fortemente l'intervento, che potrebbe avere potenziali pericoli. Non ci sono sufficienti prove per sostenere la sicurezza o la terapeuticità di questo intervento, mettendo in guardia quindi dall'inserire nell'occhio protesi di qualunque tipo che non siano state approvate dalla FDA, che è appunto l'ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici. Dico ok, dico, ma come si fa a farsi inserire questo degli oggetti all'interno dell'occhio, dico, per sembrare più belle? Ma non va bene, ma non si fa, cioè poi ognuno ok, è libero di fare ciò che vuole, però perché mettere a rischio insomma la salute così? Cioè poi non è stato ancora approvato, insomma non, però ognuno, che devo dire, fate, ognuno fa quello che gli pare, contenti loro, contenti tutti, e che dobbiamo fa? È così. E andiamo avanti con la musica! due sopra la sella, lanciati per la strada, fra il cuore era una trivella. Ricordo per chiamare, non avevo il cellulare, la musica fra non era tutta uguale. Dovrei fare le somme, sembra che non so contare. Perfino alla mia famiglia non so più che raccontare. Da quando uso i contanti, ho chiuso contanti. Mi credono diverso, fra hanno chiuso i contatti. Però io mi ricordo le partite per strada coi miei fratelli, su un campo scassato che ai nostri occhi sembrava Wembley. Ricordo il genio mentre scavalca Zuppi Zarreta, con mia madre sul divano a guardare Mazinga Z. Fra le bombole e i graffiti, le macchie sui vestiti, io ti guardo e tu mi guardi e sembra ci abbiano investiti. Siamo un re ed una regina, un bambino ed una bambina. Fra il trono era una panchina e vorrei tutto come prima, come gli anni d'oro. Gli anni d'oro del grande Milan, gli anni di Van Basten e Van Damme, gli anni delle immense compagnie, gli anni con il booster sempre in due, gli anni di che belli erano i film, gli anni degli spacchi in fondo ai jeans, gli anni della techno nell'hi-fi, gli anni del tranquillo, siamo qui noi, siamo qui noi. Passano gli anni e io non metto questa testa a posto, sempre la collana, i denti d'oro ed il cappello storto. Ho un po' più di esperienza e qualche punto in più sul corpo, qualche amico l'ho lasciato per la strada e qualcun altro è morto. Ora lo scooter è una moto grande, per il resto frate, sono diventato tuo zio e lo zio è diventato padre. A fare il rap sono un colosso, perché ho ancora la fame addosso e fra mi scasso ancora ogni volta che posso. Però ricordo ieri, avevo più amore, più amici veri. Oggi ho soltanto più amanti, soldi e pensieri. Ho quei giorni nella testa, una canna ed era festa. La scuola mi bastava saltarla che mi sentivo gangster. Lei aveva gli occhi più grandi che abbia mai visto, è dentro ad ogni rima d'amore dal primo disco. Siamo un re ed una regina, un bambino ed una bambina. Fra il trono era una panchina e vorrei tutto come prima, come gli anni d'oro. Gli anni d'oro del grande Milan, gli anni di Van Basten e Van Damme, gli anni delle immense compagnie, gli anni con il booster sempre in due, gli anni di che belli erano i film, gli anni degli spacchi in fondo ai jeans, gli anni della techno nell'hi-fi, gli anni del tranquillo, siamo qui noi, siamo qui noi. Jack La Furia, gli anni d'oro, e su questa canzone saluto Toti, un bacione grande. Abbiamo il tempo ancora di un'altra canzone, poi ahimè dovremo salutarci, ma tranquilli, tanto torno mercoledì, andiamo ad ascoltare. Cambiare macchina è molto facile, cambiare donna un po' più difficile, cambiare vita è quasi impossibile, cambiare tutte le abitudini, eliminare le meno utili e cambiare direzione. Hey! Cambiare marca di sigarette o cercare perfino di smettere non è poi così difficile. E tenere a freno le passioni, non farci prendere dalle emozioni e non indurci in tentazioni. Cambiare logica è molto facile, cambiare idea è un po' più difficile, cambiare fede è quasi impossibile. Cambiare tutte le ragioni che ci hanno fatto fare gli errori non sarebbe neanche naturale. Cambiare opinione non è difficile, cambiare partito è molto facile, cambiare il mondo è quasi impossibile. Si può cambiare solo se stessi, sembra poco ma se ci riuscissi faresti la rivoluzione. Hey! fare il meno male possibile e non essere il migliore. Non avere paura di perdere e pensare che sarà difficile cavarsela da questa situazione. Programma per oggi all'interno di Semplicemente Insieme. Vi rinnovo l'appuntamento insieme a me mercoledì, sempre a partire dalle 15 circa sino alle 17. Adesso vi lascio con CRM Linea Sport con Santi Genovese, quindi vi auguro un buon proseguimento con i programmi di CRM. Mi raccomando, come dico sempre io, fate i bravi. Alla prossima, ciao ciao, baci. Sem-